L'altra grande, colossale menzogna: aboliamo il tempo pieno. Non c'è non solo nessuna riduzione del tempo pieno, ma è lapalissiano che, passando da più insegnanti a un insegnante prevalente, abbiamo la possibilità di avere insegnanti da applicare al tempo pieno. E quindi questi insegnanti possono far aumentare del 50% le classi che possono usufruire, a richiesta dei genitori, del tempo pieno. Anche qui abbiamo dei numeri precisi: con la media di 21 alunni per classe, ci saranno in 5 anni quasi 6.000 classi in più con il tempo pieno. Sono numeri importanti.